Ingratissima, l'ho ucciso. Io sono lo spirito suo, da lui divino, e son con l'ombra mia che sol s'avanza, esempio a chi d'amor pone speranza. Angelica cui fu sposa Medoro, che segnò questa loro, lo vergò di sua mano, la mia tiranna, vien presse di sua mano il mio martoro. Amanti e sposi, o te sposa Medoro, vendetta, se vendetta incontro amore, ho trovato il modo per cacciarmi del seno.